Ecco Diana, diciamo, per smontare questa logica occorre avere anche un po' di conoscenza, di informazione rispetto a Belfiore e Manifattura Bacchi. Ecco, chi sono i proprietari? Chi è che ci guadagna? I rapporti ci sono con l'amministrazione comunale, con diciamo, i poteri forti della città? Questo è difficile a dirsi, insomma, cioè, si vede, nel senso che noi abbiamo fatto anche abbiamo anche richiesto un anno fa un incontro con l'assessore all'urbanistica e il presidente di quartiere come associazione Giardino San Jacopino per chiedere appunto conto di queste cose, e la risposta che abbiamo avuto è stata: non vi lamentate, perché rispetto alla diciamo finanza su poco pulita che ha creato problemi con Belfiore, ora abbiamo una finanza internazionale pulita con la quale potremo trattare. Le trattative si vedono poi dai risultati che si ottengono, cioè questi ottengono tutto quelli che vogliono, noi non otteniamo niente, nonostante noi continuiamo a mandare progetti, a fare battaglie per avere cose diverse. Quindi non posso farti un'analisi con documenti, ti faccio un'analisi del risultato. Il risultato è molto evidente, insomma, cioè, soprattutto perché di nuovo siamo di fronte a un'amministrazione che, come le amministrazioni degli anni 60 e 70, punta allo sviluppo urbanistico diciamo abbastanza selvaggio in mano a grossi gruppi, perché ci ricava tanti soldi per l'urbanizzazione eccetera, che vanno poi a permettergli di fare le politiche della città come gli pare. Questo è indubbio, lo posso dire, no? Però oltre a questo il resto lo vedete tutti, cioè basta guardare, cioè, se uno chiede uno spazio sociale, la possibilità di noi abbiamo chiesto più verde, più spazi sociali, più giardini, perché è un quartiere assediato assediato in positivo da grande natalità e da grande presenza di bambini, molti anche migranti, che non hanno la possibilità tutti di andare come quelli, diciamo, con i soldi alle palestre eccetera, o ai giardini delle cascine o ai giardini con la macchina, ma hanno bisogno dello spazio vicino a casa quando escono da casa. Lo spazio di quartiere. E non si vede niente. Ah, ecco, mi è venuto in mente. Il quarto luogo è un luogo, e questo è importantissimo, il quarto luogo è un luogo che vi segnalo, fateci caso, prendete Google Map, andate a vedere. Il quarto luogo sta fra Via della Carra e Via Porte Nuove. Via della Carra c'è la biblioteca, il centro anziani, di lì parte uno spazio che arriva fino a Via Porte Nuove, che è un ex calzaturificio di proprietà della regione, che deve essere passata, doveva essere passata al comune quando noi abbiamo cominciato a richiederlo come luogo, a fare battaglie per poter trattare col comune. Tre anni fa era ancora possibile che il comune la potesse acquistare, adesso la regione lo sta mettendo all'asta. C'è scritto nella destinazione del piano regionale, del piano urbanistico comunale, c'è scritto che può essere parcheggio e o giardino. E o sapete bene cosa significa in italiano nella pratica poi politica di questi giorni. Noi l'abbiamo messo fra i quattro luoghi su cui chiedere cambiamento di interesse del comune, e quello sarebbe lo spazio ideale per avere un giardino, sostanzialmente accanto a una biblioteca, accanto a una ludoteca, accanto a un centro anziani. La biblioteca Fabrizio De André. Sì. È così plateale la cosa, che veramente bisogna essere orbi per non vedere. Provate a guardare una mappa e rendetevi conto. Non abbiamo mai avuto risposte, l'abbiamo sollecitato. Ora abbiamo cominciato anche a spedire lettere con la PEC, in modo che siano registrate per benino. Abbiamo fatto una manifestazione in giro per i quartieri, abbiamo fatto un cartello. Se volete andate su Facebook di Giardino Associazione Giardino 6 a Copino, a recuperare questi materiali, a vedere quanto tempo, quante energie, quante volontariato ci abbiamo messo dentro a questa iniziativa. Appunto, parlavi del giardino, di come, diciamo, entrare in contatto, vedere le iniziative del giardino, però ce ne può parlare anche nello specifico, ecco, quando è nato, quando le iniziative si sono succedute, come è gestito proprio in termini pratici, ecco. Allora, questo giardino, dicevamo, nato dall'81 in poi come conquista, eh? Io ogni tanto vedo dei ragazzi che sono cresciuti in quel periodo lì e le mamme, ci parlo, le mamme della mia età sostanzialmente, e ti dicono: ah, ci avevamo avuto un bel giardino. All'inizio era veramente un giardino costruito anche bene, con la varietà di arboree che permettevano durante tutto l'anno di avere più specie. Veramente, io quando sono arrivata sono rimasta stupita di trovare a Firenze una realtà così, poi ho scoperto il perché, ma in parte lo sapevo perché quando c'era l'occupazione mi ricordo di esserci stata. Allora, il giardino era quindi una bella risorsa, la scuola era una bella risorsa, la scuola nuova, e credo che ci siano stati anni di vita molto buona nel quartiere, sostanzialmente, per dei ceti medi che si erano insediati. Da partire da 7-8 anni fa, il giardino è stato progressivamente non più curato dall'amministrazione, per cui le mamme cominciavano a trovare siringhe, cominciavano ad avere dei problemi, cominciavano a sentire che non era più un giardino sicuro, e 5 anni fa una serie di persone che avevano i figli nell'età fra le scuole materne e elementari fondarono questa associazione Giardino San Jacopino. Fecero la prima convenzione col comune per aprire, chiudere, garantire almeno che ci fosse la sicurezza notturna del non apertura. Quindi diciamo che il problema, molto spesso citato come spauracchio della sicurezza, in questo caso è stato risolto non in una forma repressiva, ma perché diciamo, il luogo è vissuto dalla gente. E come sempre si risolve il problema della sicurezza, eh? Cioè, in San Jacopino ci sono le telecamere, ma quando si chiede di sapere perché succedono certe cose non si riesce a fare intervenire nessuno, quindi le telecamere non so a cosa servono, perché dal punto di vista della sicurezza non garantiscono niente. O si va allo stato di telecamere sempre più diffuse che arrivano anche dentro il gabinetto, no? Oppure la telecamera di per sé non garantisce la sicurezza, è la presenza che garantisce la sicurezza, è la partecipazione, è il fatto che la gente sa cosa vuole, e quindi quello funziona. Questi uomini e queste donne, beh, genitori, sapevano cosa volevano e hanno chiesto quindi di poter gestire il giardino. Sono 5 anni che noi apriamo e chiudiamo tutti i giorni, 365 giorni all'anno, il giardino. Io a volte dico anche, io sarei stufa, non lo apro più io in questo momento, ma mi sembra che un'amministrazione comunale a Firenze, con tutti i soldi che mette in certi altri eventi, che diciamo in uno spazio come quello di San Jacopino, come ho descritto, così densamente abitato, con presenza di ragazzi così tanti, si faccia aprire e chiudere un giardino comunale, l'unico che c'è. Veramente, è anche un po' scandalosa pensarci, però noi non demordiamo, finché ce n'è bisogno, cioè finché non si trovano altre soluzioni, finché non si riesce a rimuovere le cose, certo non vogliamo andare indietro. Questa apertura, diciamo, ha coinciso con il fatto che appunto c'era una convenzione e con il fatto che si è cominciato a pensare che era anche uno spazio sociale sostanzialmente, oltre che un luogo di gioco, e quindi sono cominciate le prime feste dello sport. Finché si era le feste dello sport c'era sempre sponsorizzazioni anche comunali, no? C'erano momenti di feste di carnevale, festa di Natale, cioè sono state le prime. Ma se andate su Facebook Associazione Giardino San Jacopino, c'è una raccolta di foto che vi fa vedere anche tutta questa storia molto bella, perché si vede una grande partecipazione ormai di due generazioni di ragazzi e di genitori, sostanzialmente, perché siamo arrivati a quelli che 5 anni fa ora sono già alle medie, non frequentano più alla stessa maniera il giardino, eccetera eccetera. Negli ultimi anni abbiamo premuto tanto per provare ad allargarci attraverso il contatto con gli altri comitati di zona, quelli che vi ho detto, i quattro luoghi, e quindi a fare delle richieste più complessive, perché è una questione di quartiere, come vi ho cercato di farvi capire, è una questione di quartiere dove noi siamo una piccola entità, e se non ci colleghiamo agli altri poco si ottiene. E quindi la richiesta di avere il secondo giardino è stata fatta formalmente all'amministrazione comunale, con lettera spedita per PEC e con progetto preciso di bloccare quello spazio di Via della Carra per crearci perlomeno lì un altro spazio comune sostanzialmente. Cosa facciamo dentro il giardino? Appunto, ve l'ho già descritto, l'attività prevalente è questa della socializzazione, quindi i momenti di giochi, i momenti vari e questo lavoro di tipo interculturale, di convivenza, di scambio. Quindi perché... non soltanto un'attenzione al giardino in sé, ma anche alle relazioni sociali, certo, tra gli abitanti e quindi... una sorta anche di antidoto, tra virgolette, rispetto a una deriva asocializzante, razzista. Ecco. Ecco, perché non dimentichiamoci che da 2 anni e mezzo, 3, e negli ultimi anni e mezzo in maniera abbastanza massiccia, la zona è stata infestata dalla presenza di una destra abbastanza decisa e aggressiva. La sede di Casa Pound, che si è spostata da noi, è proprio dietro il giardino San Jacopino, scandaloso, lo ripeto, lo ridico sempre, davanti a una scuola, a un complesso scolastico, davanti a una scuola media da cui escono i ragazzi, hanno davanti Casa Pound. Lì c'è stata la mobilitazione, come ricorderete, di tutta la città appena fu messa Casa Pound, ma non c'è stata nessuna presa di posizione da parte dell'amministrazione pubblica. Non c'è stata nessuna pubblica e statale, cioè anche del prefetto e questore. Cioè è un punto in cui è stata insediata Casa Pound che veramente grida scandalo. Io quando lo racconto in giro per l'Italia grida scandalo sostanzialmente. E la presenza di questi personaggi si nota, come no? Si nota benissimo perché... intanto appena noi facciamo un'attività i manifestini spariscono velocemente, noi ce li rimettiamo, loro ritolgono, rimettiamo e ritolgono. Ragazzi, diciamo, la loro attività, che sapete, no, si basa su forme di coinvolgimento di ragazzi giovani in varie attività, si vede che c'è. C'è anche tentativi di, attraverso i pacchi alimentari, di coinvolgere le strati più deboli della popolazione, persino migranti, nonostante, purché siano in linea col regime che rappresentano, si sta notando anche questo. E quindi c'è adesso, diciamo, c'è una nuova emergenza, che è molto preoccupante se la sommiamo a quel discorso che vi ho fatto prima, delle possibili trasformazioni nell'arco dei 7-8 anni futuri, quello che mi preoccupa parecchio. L'emergenza attuale è questa. Io racconto una cosa di cui ho 2 o 3 testimoni, e che non è finita sui giornali perché era un momento particolare, molto ovviamente anche colpa nostra di non averla pubblicizzata. Quando noi nella nostra zona vivevano i senegalesi che sono stati uccisi e feriti molto nel 2011 e viveva anche la donna di Idi, che è stato ucciso più recentemente. Quindi noi vi dico una cosa, come rete antirazzista 2 mesi prima del fatto di Idi avevamo proiettato il film che parlava del dentro il giardino, avevamo proiettato il film che parlava dei fatti del 2011, si chiama Va Pensiero, è di Dagmoï Imer, lo trovate come trailer anche su YouTube, si può procurare con pochi soldi, insomma si può far arrivare abbastanza facilmente perché è il gruppo di Roma che l'ha promosso e che lo diffonde. L'avevamo proiettato, avevamo avuto proprio anche la moglie di quella sera dentro il giardino, perché questo, e molte donne senegalesi, a dimostrazione che c'era questo tessuto di realtà funzionante veramente già attivo. Dopo i fatti di Idi, naturalmente la comunità complessiva di migranti e noi stessi è molto scioccati. Ho saputo dopo vari giorni che era successo, da alcuni testimoni, che la sera prima della grossa manifestazione che ha visto tanta gente confluire a Piazza Santa Maria Novella e noi stessi per la prima volta con lo striscione dell'Associazione Giardino San Jacopino, una manifestazione di tipo politico, Ho saputo che la sera precedente da casa mia ho sentito dei rumori verso la piazza, ma stavo andando a letto, non sono andata a vedere. Il giorno dopo, dopo qualche giorno, ho saputo che da casa Pound sono uscito, soprattutto con motorini e qualche auto, con le bandiere gridando fuori i neri dai quartieri. Questo è un fatto di cui d'ora in avanti cominceremo a prendere atto, a documentare, perché veramente questo è stato un fatto molto grave che è passato inosservato, che però dà la dimensione dell'impunità con cui agiscono in questa zona. Le videocamere c'erano in piazza, manifestazione non autorizzata era, le bandiere di Casa Pound mi risulta che non dovrebbero andare molto a giro, ma nessuno è intervenuto. È evidente che molti di noi e molti dei migranti non avevano tempo di pensare a questa cosa, vivevano un dolore molto forte e pensavano a fare altre cose. Io lo segnalo perché è veramente un bruttissimo segno di cui comincia a pensare che non è una cosa che riguarda solo Jacopino, ma riguarda l'intera città. Ora, sotto gli occhi che riguarda anche l'intera Italia, ma insomma, almeno diamoci una mossa per Firenze. Ci sentiamo un pezzo musicale e poi riprendiamo con l'intervista. Thank you. procedure povertà. Che ci dici? C'è stata un'iniziativa alcuni giorni fa che poi verrà replicata in primavera, no? Mangia come parla sei. Scambio di cibo, di chiacchiere, di parole, di ritrovarsi. È stato bello perché abbiamo invitato delle realtà sociali dell'area fiorentina. Non è una festa solo del quartiere, è una festa a cui invitiamo tutti perché è un momento in cui provare a ricreare una solidarietà antirazzista e antifascista. Tutte e due le cose, che è convivenza, convivialità, ma è antirazzismo e antifascismo. C'è poco da negarselo, questa è la cosa fondamentale. Quindi questo. Nel campo della scuola, qui appunto, visto che mi date questo spazio, noi abbiamo bisogno di volontari di un certo, possibilmente un pochettino anziani che abbiano tempo e voglia di stare coi bambini, perché siamo in difficoltà, vi dicevo in un altro passaggio, con la scuola donne migranti. Abbiamo troppe richieste rispetto alle persone che possono lavorarci, ma anche rispetto agli spazi che ci abbiamo, non per volontà dei dirigenti scolastici, ma per realtà reale, di grosso afflusso di bambini e le scuole piene. Abbiamo ridotto con grande sacrificio e con grande dispiacere temporaneamente il corso, invece che a due giorni settimanali, a due corsi di un giorno settimanale ciascuno, che detto così significa non fare quasi nulla. Però abbiamo fatto partire le lettere di richiesta all'amministrazione, al sindaco, all'assessore Giacchi, al presidente di quartiere, ai rappresentanti di quartiere che stanno nella nostra zona, perché trovino perlomeno le risorse per fornirci uno o due educatori che ci aiutino. Facciamo un servizio che dovrebbe essere della comunità, della struttura diciamo scolastica e del comune, che si bea di tante iniziative e lascia stare questo tipo di cose. Quindi la richiesta è avere al più presto uno o due educatori che ci affianchino e ci permettano quindi di poter fare due corsi con noi che siamo più, diciamo, più specializzati, più capaci di fare la parte di insegnamento dell'italiano, e qualcuno che tenga i bambini. Perché i bambini prima dei 3 anni, che vengono con le mamme che imparano l'italiano, se noi li spostiamo e li mettiamo tutti insieme da un'altra parte, non ci stanno ancora. C'è un forte legame mamma-figli, soprattutto nelle comunità migranti, più di quanto immaginate. Lo stiamo verificando, abbiamo fatto delle prove molto difficili. E d'altra parte questa è la risorsa, cioè queste mamme se non portano i bambini non vengono a scuola. Dove li mettono? Quindi o la scuola si fa così o non si riesce a farla, è una risorsa fondamentale. Ho visto a giro, ce ne sono poche, ci sono un giro per l'Italia, qualcuno anche intorno a Firenze, di scuole fatte in questa maniera. La mattina alle 8:30 si lasciano i bambini a scuola, si viene con il bambino più piccolo o senza bambini, è possibile anche quello, purché si abbiano bambini in quella scuola. Vi racconto alcuni aneddoti rispetto a questo, andando un pochettino più sul positivo invece che sempre le cose nere che purtroppo ci tocca guardare. Intanto la cosa bellissima è stata che quando abbiamo cominciato questa scuola, i bambini, in particolare le bambine che avevano la mamma dentro la classe dove facevamo la scuola migranti, cercavano di venire a sbicciare, si affacciavano per vedere queste mamme che andavano a scuola con grande goduria. Poi quando dal giardino ci incontravano noi maestre, ora permettetemi di dire una cosa, io ho fatto l'insegnante universitaria per 40 anni e adesso sono maestra da 4 anni, con grande piacere, perché così mi chiamano e così mi sento. Allora, maestra, ma la mia mamma impara? Cioè, maestra, ma la mia mamma impara è diventato uno slogan, no? Ma la mia mamma è brava? Ma la mia mamma viene a scuola? E allora qualche sono volta... Loro controllano. Che controllano, ma perché? Perché le esigenze proprio dei bambini, la seconda generazione che vuole vivere qua e che vuole avere tutti gli strumenti per vivere qua e che vuole smettere di dover fare sempre la mediazione, perché a scuola spesse volte i bambini fanno la mediazione con la mamma che non parla e si vergognano o non sono stufi di fare questo ruolo. Una volta, quando arriva giugno, ci spostiamo per un mese e mezzo, anche dentro il giardino e facciamo scuola all'aperto. E un giorno arrivano delle donne, una signora con un'altra bambina, con una ragazzina di 10 anni, accompagnata da un altro ragazzo che viene e ci dice: dov'è la scuola qua? E io dico: la scuola, no, io ho pensato circa la scuola per iscriversi, e gli ho detto: guarda, la scuola media di là, la scuola materna, la scuola elementare di là. Dice: no, la scuola per le donne che devono imparare l'italiano. Ah, siamo noi. Ecco, questa è mia zia, no? Questo ragazzino, questa mia zia che è appena arrivata, e questa è la mia cugina che devono imparare l'italiano, lei deve andare a scuola e la mia zia deve imparare l'italiano anche lei. Allora mi sono messa a parlare. Praticamente questo bambino era, diciamo, nel gruppo familiare, era stato quello scelto ed era venuto da Prato apposta quella mattina per accompagnare la mamma e la bambina a incominciare a imparare l'italiano. Cioè, pensate quindi il riconoscimento che questa piccolissima attività può avere e il ruolo che può avere. Questa donna poi ha avuto complicazioni, spesse volte non è venuta, però ha instaurato un rapporto. Quella bambina, ora alle medie, la vedi molto integrata, va benissimo, però è stato il primo approccio. E hanno addirittura scelto un ragazzino della famiglia che stava a Prato, che ha preso l'autobus, la corriera, non so, lo treno, per venire a portarci questi due, no? Sono piccole cose, perché i numeri sono pochi, purtroppo. Abbiamo bisogno di volontari che ci aiutino e poter crescere, ma ci sarebbe da dire, ci sarebbe bisogno che il comune, che le strutture addette si impegnassero in questa attività. È inutile continuare a parlare di integrazione e poi non esiste una scuola obbligatoria o un'offerta scolastica per chi arriva e per chi ha bisogno. Istituzioni, però, se ci sono volontari delle associazioni di base, va bene uguale. Ma noi pensiamo di sì, anche se non è piacevole sentirsi sempre sostituti di qualcosa che sarebbe un diritto. Io non sono d'accordo a fare la volontaria tutta la vita. Io ho detto che ho fatto la volontaria per far partire delle cose, ma non ho intenzione di fare la volontaria tutta la vita. Saranno delle lotte che devono far ottenere questi nuovi risultati, come è stato con il giardino, no? Cioè, le donne si sono impegnate per ottenere il giardino, poi il comune ci ha messo il suo e l'ha fatto crescere questo giardino negli anni 70-80. Bisognerà che anche in questa situazione di oggi si riesca a trovare la strada per arrivare a quella realtà. Cioè, io non sono per la carità o per il servizio sostitutivo, il volontariato sostitutivo di quelli che sono i servizi obbligatori da parte di una comunità, per cui diventano diritti. Per spingere in una certa direzione uno può fare volontario un certo periodo, ma non tutta la vita. Quindi vertenze, ecco. Quindi possibilità di vertenze. Devo dire che nella realtà fiorentina le vertenze sono difficili. Cioè, abbiamo dei muri di gomma, ma dei muri di gomma con delle facce proprio di gomma. Non so, io vedo che non si sfonda granché. Toccherebbe recuperare lo spirito che ha portato, diciamo, all'avere il giardino. Toccherebbe fare così. Io quello che posso lo faccio. Non è facile oggi, però io dico sempre: io, avendo fatto la storica, ho una grossa risorsa, che credo ai cicli storici, credo che prima o poi qualcuno si sveglia, prima o poi qualcosa cambia. C'ho una visione internazionale, per cui non penso che tutto è, come ormai ci hanno abituato in Italia, tutto è chiacchiericcio e realtà italiana, per cui non è detto, qualcosa può cambiare. E se qualcuno vuole prendere contatto con l'associazione Giardino? Abbiamo Facebook, abbiamo un'email sul sito con cui contattarci. L'indirizzo email? Sì, c'è. E finiamo qui questa intervista con Adriana, la ringraziamo. Grazie a voi della bella accoglienza, e spero che questo serva a fare svegliare un po' di gente in questa zona, almeno in questa zona, non dico altro. Ciao.